musica. DJ Superstar. Dai che si balla stanotte, dai. Modulazione di frequenza da Sassari. Vai, io capisco, ma... Avanti. Buonasera, mi. Buonasera anche a te, ma che sei, Natalino sei? Non mi conosci? Buonasera, Natalino. È così. Buonasera, Natalino. Ha trovato un poco di casino. A vedere se entrava anche uno. Via. Dovevano operarmi lunedì, tutto saltato. Come ti mai, Natalino? È saltato l'impianto delle sale operatorie. Sì, era un capo di disastra. Ma sto pensando che c'è un cazzo di compite. No, quello lì mi hanno chiamato, mi hanno fatto il prelevo per richiedere il sangue. E dopo mi hanno telefonato quando sono tornato che era tutto saltato l'impianto delle sale operatorie, quindi salta anche l'intervento. Mi dovevano operare domani. Mamma mia, ogni tanto ve ne una, venne. Ce n'è una ogni tanto, mi dispiace tanto, cavolo. Dai, già si rimette tutto a posto, mi. Dopo io mi sa che dovuto fare pure gli pizziti, a chi pure io non vi vediamo oggi. Cazzo, 200 desiderio di pizziti, allora tocca pagare tutto. E oia, arzo pure ai Pina, puro brogno sei diventato, che? Vai, vai, te non ti faccio che si può fumare. Ciao Luca, buonasera. Che ti scoppiattano la plafoniera un attimo, eh? Cappa, dai. Sì, a casa di Marina. Eia, un attimo, arrivo subito. Sono una bomba, sì, no, sei una bomba. Riprendi Natalino. E io è che sono piccolino. No, si prendi Natalino, che sia a fondo scala, sì. Vabbè, perché siamo vicini. Penso che ti arrivi a fondo scala pure io, ti sia tutti i led, tutti... o lo smitter. Tutte cose si attendi, occhi. Beh, assai siamo lontani, siamo a due passi, siamo. Tu sei in Corso Trinità, io sono Ginocchi. In zona Santo Bulinare, dai, la stazione. Infatti siamo vicinissimi. Cappa. Ora là è la capsula di Kisuyoku, in Kiwi. Come? Mi ha messo la capsula di un corso, mi pare. Di un gioco, perché la sua... Qua c'è il Polmal, c'hai. Eia, c'ho il Polmal, ma non lo sto usando. Sto usando il... cosa, come si chiama? Il Superstar. Va bene, va bene. E io omologato è anche questo. Perché quello era dopo Caffanti, Saparicchi. E lo qua nella scatola, se trovo lo do a qualcuno. Dai, dopo ti chiamo. Ok, dai. Ma quale? Il Superstar o che cosa? No, il Polmar. Molto ne vuoi. Sì, cosa? Non me lo metto in macchina o lo do, perché non... È nella scatola, mi l'ho messo nella scatola, perché è piccolino. Sì, è roba alla macchina, ma ce l'hai ancora la basettina in macchina? Sì. Già pompa. E andava bene. E invece non pompa proprio, cosa pompa? Non si può fare nella radio, nulla, non si può fare nulla in chissà Parigi. Mira preciso Antonello. Sì, lo so che non si può fare niente, lo so perfettamente. Lo so. Allora c'ho l'altro, c'ho l'Alfa Yeti Zeus, ma è più che altro è simile al Polma. Ma è il mio ciabatta, se vuoi te lo faccio sentire. Oh, il mio c'è basso, bro, più... Non so, però... Ma te lo posso sentire in via, vedi come ti esce, Romeo. Sì, ma sarà costruito in modo diverso. aspetta un attimo, la testa. Eia. Sono andata lì. E cazzo, questo c'è bene. Oh, ma questo, questo qua l'avevo preso, la fuzzara l'avevo preso, la faglietti zeus. E cazzo. Oh, Guido, manca la medaglia di isso. Guarda, lo sto mettendo, sto so pilotando a 4 watt, a pompa, anda bene. Anda benissimo. No, i watt ce li ha, 4 watt. Però, radio bassa. E boh, tu adatto la maglia a radio, avanti pongo pure i viraggi in oggi. Oh, già. Il microfonino, normale. Allora, mala, vai. No. Lo provo a piazzare, a vedere cosa ne pensi. Ma Natalie, com'è questo? È più basso, però già è bella comprensibile la radio. Buono, questo è il suo microfono, eh. È il suo microfono della... del coso, della... della fagliette, dai. Ecco. Io ne ho due di cose, di MB più 4, ma... va l'attacca Otto chi su Bolmar. Ma l'hai provato a fare le connessioni a verse va? Sì, infatti uno c'ha lo spinotto a 8, però non aumenta nulla di amplificazione. Ma due secondi la minaccia lì, va a cambiare l'acqua gli olive. E cappa. Natali, Natali non ci sei? Ehi, dimmi. E cappa, dai. E quindi ti stavo dicendo, mi stavi dicendo che lo stai vendendo quel Polmal. Ma hai provato a mettergli altri microfoni? Ehi, non ne va bene uno, non amplificano. C'è anche l'MB più 4 qua. Ma niente. No, no. Sono nuovo. È un po' strano, eh. Ma lo sai, quanti polli c'ha? Come quello del Kenwood, 8 polli. E allora, forse il mio è così. Vabbè, c'è tutti, tutti uguali saranno. Vai, vedi. Oh, yeah. Cazzo. Ora, passiamo un po', là. Aspetta, guarda. Guarda un po'. 5, 6, 7, 8, pure io c'ho 8. E cazzo. E tu che modo che fine ha fatto Natali? E tutto mi avevo venduto. Davvero? Sì, già è un anno questa storia. Sì. Lo sapevo io che se l'avevi abbigliato io. Quello era un signor Kenwood. Ci aveva parecchi anni, mi ricordo, ma è pochi ci avvolti me. E ci aveva i finali taroccati, per forza ci va forte, dava 200 watt. Ah, se roba l'alimentatore, figuria. L'alimentatore l'avevo dovuto modificare io, perché sennò si sedeva. Era da 40 ampere, però non li dava e allora gli ho dovuto cambiare roba dentro per poterlo fare funzionare, se no si usava i calentatori, si puniva al massimo uguale. Lo so, si usa sì. Allora, questo che sto usando io è ventilato da 20 ampere, a voglia che va bene. Non ce l'ho più quell'alimentatore, l'avevo dato con 440, l'avevo dato. Questo che c'è adesso è 30 ampere di quelli ventilati della Proxel. Vabbè Antu, sì. Ti lascio che non sai che disturbo qua, non si sa mai. Paravano è giunto nessuno a suonare, però è meglio evitare, da. Perché stai disturbando la TV? Non posso parlare qua, no? Vabbè, da voi va, Natali. Santa pazienza. Vabbè, ci sentiamo, Antu. Ok, Natali, ci sentiamo. Antonio. Martino, sì, no? Sì. Gappa gappa. Dimmi, c'è un Natalino poc'anzi, mi sono... Mi ha dovuto chiudere perché c'era un braghiccio che distribava, non so più cosa. Ecco. Ma che è successo qualcosa? Tia, controlla che c'è qualcosa che non va. Ritorno di RF, qualcosa del genere, guarda che non sia qualche spezzone che sta rompendomi. Infatti. Vabbè, bombolo. Buonasera, eccomi qua. Ecco, sto parlando. Ma continua, stavo parlando, ma esci di tutta scarica, stavo uscendo. Aspetta. Ora, guarda un po'. Ciò va bene. C'era una persona che ci aveva abitato bene. Sì, vabbè. Quando lo usi spesso la radio, non c'è sto controllo. Quell'era degli ispettori, Gianni la Mattesia, te lo stesso, a me lo stesso, a Roberto lo stesso, minchia che non c'è una persona che ci va bene. Ciao a te. No, ciao caro, ma non mi va bene. Adesso controllando, siccome è mia abitudine quando c'è tempo brutto, magari fa col PL del commutatore di antenna, no? Adesso ho toccato, volevo l'era. Invece a me mi è andato in corto. Mentre stavo parlando, si è fatto dallo boom, vabbè. Ovvia, ovvia, suora la prendere in portazione. Dicevo, un mal di schiena allucinante, è premiato. Anche tu. Tutti mi sono alzato stamattina che non ce la faceva stare in piedi. Ieri non c'avevo niente. Ho fatto due tronfate a casa, ma... Ero inchinato, sì, sotto la scrivania, pulendo, facendo, ma... Mi sono alzato a pezzi. Ah, pezzi, non vado a te a muovermi. No, io invece... Ero una volta, ho fatto una... Un muretto così, poi non c'avevo più materiale e sono andato. Ed entrando sono entrato... Sono andato a casa di mia sorella. Per vedere la mamma salire nella... lavatrice sopra... Cioè, la asciugatrice sopra la lavatrice. Teoricamente al momento non sento niente. Adesso sono qualificato qua poco, anzi, sono fatto adesso, la mano di schiena. Però già ti dica, perché è carogna, che è nato? Antonio. Sì, capo, stavo parlando con la mia 25. Bene, allora priorità assoluta. E capo, invece stai parlando con Claudio. Mamma mia, madichina. Non ha dato succedi pure a me, succedi. Oia. Vabbè, dai, paghiamoci la salute. Paghiamocela, sì. Adesso sta andando bene la radio. Ma che bello, una persona che era nel mare. Io ho due commutatori di antenna. Di quali uno è per le filari e l'altro per la verticale. E tutti e due hanno un altro conduttore di antenna dove sono attaccate varie radio, diciamo, quindi seleziono la radio che mi interessa e la rompero. E ora quello intermedio, ecco. Ah, c'era un'altra antenna attaccata per caso? Sì, ma è esclusa quella, una volta che tu commuti è esclusa. E gatta, ho capito. Stavo guardando, l'altro giorno voglio prendere un commutatore, mi voglio comprare. Io ti consiglio di prendere, e forse Claudio se ricordo il nome, io adesso sinceramente guardo il tuo nome, mi viene male anche a controllartelo, sono quelli blu, non prendere quelli della ZG perché fanno cagare. Che capa, il babbo ne aveva preso una volta della Proxer, abbedo massiccio, e quelli buoni. Quelli sono buoni. Capa, quello lì è la boia, da tutto, fanculo, cosa vuoi tiglia. No, il commutatore no, l'accordatore, mi sono sbagliato, voglio prendere un accordatore. Ma se non mi sbaglio ne aveva uno buono, un attarino. Davvero? Sì. Sta vendendo? Credo di sì. Scappa, già glielo chiedo già. Già glielo chiedo a lui. No, per tenerlo, mi capisco, magari capita che possa accordare. Sì, chiedilo, chiedilo. Infatti devo rispondere a una domanda che abbiamo fatto su PC, riprendo subito. Capa, io faccio una bassa un attimino. Sento qualcuno pio pio, avanti. Avanti, chi è? Cri. Bianco un attimino che faccio una bassa. Fai, io tu fai, sono qua in Corrix, sto scrivendo qualcosa al PC. Perché sai anche scrivere adesso? Ah, un pochino. E anche se una cosa sto rispondendo, con cortesia rispondere anche. Buonasera. Eia! Detto, sai anche scrivere? Ma scrivo con un dito nella tastiera, vedo delle ciao, faccio C, dopo un po' I, poi aspetto un po' con A, capito? Beh, certo. Giustamente. Aspetta. Dammi il tempo. Tempo? Non so come. Si è messo più il gioco. Non è proprio questo che tempo ho messo. Non lo so, mai sta succedendo, sì. Prova, 1, 2, 3, 5, 9. Sì. Vabbè, Lugariello. Che becca! Come, che sento più odore, gioco. Pensavo come fosse passato, invece un bel casino. Sento il mal di schiena. Ah, c'hai le carogne. E mi sono lasciato fare un po' di cose qua, spostamenti, balle varie. Ho svoltato con l'altra base, carte con Lubesia, deve essere che ho fatto qualche trappo di nuovo, fanculo. Devi fare il riscaldamento, capi, mai fare gli sforzi. Ti credi hai motorino. Okla, ci vuole una passata di mio duro. È una passata di uccello, in gergo italiano, uia. Ho fatto qualche sforzo, perché ho sotto la scrivania, togliendo capi, balle varie, che ho tutto claro che non serviva. Poi adesso sono arrivato l'amplificatore, quello grande, a mettere dentro l'armadio, e anch'io mi sono occupato a pezzi. Questo, e ti è calata la superpotenza. Sì, ti è calata la superpotenza, sì. Ti ho buttato la sangue a mio mano, però. Dove devi parlare, perché? In Alaska, devo arrivare in Alaska. Vai, va poco, se andiamo a 45, ti cacchi tu. Bubu, andiamo a... Ma non ho tolto di tanto l'accento così, quello grande, ogni tanto l'accento. Perché ho fatto anche fare il carretto per il tempo, tu capisci? Per farlo funzionare, sai che ci vuole il carretto per le CPTT e balle varie. Quindi l'ho lasciato fuori, tanto che ogni tanto lo faccio andare, ma non è giovane, ma fa male troppo la schiena, infatti l'ho messo nella base di sotto. E poi appena mi faccio male di schiena me lo collego. Va bene, un secondo. Fai, sei tocchiattino, Luca, dai, vi saluto tutti, già sono qua, intanto fra un po' devo uscire. Quando vengo a Roma a prendere l'aria, chiuderà le sigle. Per fare pulizia e tutto, se faranno le 6:30, quindi mi preparo. Finita l'hai con l'antenna, Lu? Cosa, qua? A me stai dicendo? Ehi, ho detto finita l'hai con l'antenna. Sì, ho già anche preparato il modulo per la spedizione. Spedizione, a Pesaro. Questa qua a Pesaro, esattamente a 61-122 Pesaro, PQ, si chiama Antonio Tantaro. Tantaro, ascolta, ma il cartone non te ne serve, ma se ti serve il cartone glielo sai che ne abbiamo rotolo. No, già ancora un paio di scatole ce li ho. Capito? Perché se ascoltatore dei cavi che mi arrivano, capito? Vabbè, io gli avevo preso un rotolo di cartone leggero da 20 metri, quindi sappi che se ti serve per avvolgere qualche antenna ce l'abbiamo, ci metto 5 minuti e scendo a terra. Ubiacca. Ma lì mi due ubiacca, scritta. Questo mal di schiena, adesso almeno due o tre pastiglie devo prendere per passarmi. Ne ho approfittato un bel. Sotto assolutamente l'antenna, tubi, contro tubi, scrivanie, balle varie, movimenti strani e matura da tutti. Beh, soprattutto se lo fai a freddo, mi. Oh yeah! Io lui, porta col cane, appena fatto. Ho fatto il cane e manco caffè non avevo il biliardo, mi sono messo a smontare la base della scrivania, quella a quattro piedi, perché io fuggo manna, è pesante, è un bel pesante, capito? Quindi mi ha fregato lì, poi il giorno prima l'ho fatto le antenne e perciò adesso vado a fare un po' di giorni a riposo, senza fare sforzi già mi passa, quindi non è la prima volta, no? Va bene, va bene. Fai, già sono qua io. Ho fatto. Oh, Radio Classe, adesso ha peggiorato. No, qua mi va bene lui. Sto ascoltando la colonia esterna del cavo, va benissimo. Ah, sì che no. Aspetta, non cambia niente, da così come ho messo adesso a così come era prima. Non cambia niente, beh. No, così è più bassa, ma la seconda passaggio era più forte. Perché infatti da 3 l'ho messo a 8, sicché ho detto deve cambiare. Gara. Sì, ma sei sempre basso, sei sempre brutto, basso e nero. È largo. è largo. E un'altra se n'è andata, una conoscente di mamma, per via del Covid. E chi era? Non so se l'hai conosciuta tu. No, non credo. Comunque abitava più giù dal bar. Tu hai conosciuto il figlio invece, quello Nicola, quello del bar, che trovavamo per quando levavamo a 15 caffè. L'allevatore? L'allevatore? Sì. Cioè, anche il principale di Franco Delta è morto di Covid. Cosa volete dire? Purtroppo ci sono tre patologie e si aggiunge il Covid, non perdona, non c'è un cazzo da fare, non perdona. Sì, diciamo che non era messa bene di. È andata a farci operare, prima di farci operare, soprattutto il tampone era negativo. Si è operato tutto quanto, non può bere l'operazione perché era un'operazione al dito del piede e poi invece uscito da lì era positivo. Io ero in ansia quando me l'hanno fatto il tampone. Lì al pronto soccorso, ho detto mamma mia, speriamo che sia tutto negativo. Vabbè, a me è una cotinuba. Su questo sul tampone, perché bene o male basta uno sputo per contagiarti e mi chiedi questo tampone, fa il tampone e entra qualcosa dentro il corpo. È un casino. È poche fastidioso, non è doloroso, è fastidioso. Capito, ogni lacrima in minnescita. Tanto tutti dobbiamo morire. Parlate una volta, però se non capisco né una né l'altra, avanti clà. No, io non ci fa vedere, allora vedete, io mi sono allontanato un attimino che ho. Sto volendo un merluzzo, prima che si consumi a tutta leva mi si cuce a tutto. E io ho detto, aspetta che ho gente in verticale, chiamo dopo. Magari hanno parlato sopra di me. E sicuramente ero io che ho sbagliato. Ha detto, tanto tutti dobbiamo morire. A tu? E dimmi. E adesso dice su Bridge alla messa, tanto prima o poi tutti dovremmo morire, e forse anch'io. A me mi ha fatto un cazzo di farlo il tampone, guarda come vada. Oh, voi anche una coglionata l'ho fatto, non c'è problema. Lui c'è anche Cosio, Luca Laurenti a Bonolis quando canta la canzone, capito? Gli avanti un altro, ricordati che devi morire. Samari di Venghia. È una cazzata da tampone a tu. È una cazzata dura, bah, mezzo minuto dura. Ti senta un cotto fiocco dentro un naso, capito? Fino in fondo. Ma è un po' fastidioso, no? È doloroso. Capo il cotto fiocco. Di la verità. A me mi stava facendo io il vomito. Capo guarda uno stecchino di chi di raggiungi. Perché è lungo, hai visto? Poi arrivi in fondo, tocca, gira, drecca, manca, gira, quasi, è fastidioso, capito? A me mi ne va già parlare le lacrime, fastidioso. Io ho fatto, anche mia figlia, mia moglie no, perché ci ha paura, siccome lei c'ha la vita, quindi dice ho paura che faccia l'anno, e vabbè, non ne va, lui dice, tanto vabbè, sempre a casa, vedi? Non l'abbiamo fatto, a pagamento però. No, a me me l'hanno fatto lì a pronto soccorso. A pagamento 60 euro, però mi pare 30 di buoni in comune, se vai nella piazza a farlo, buh. No, abbiamo fatto un ambulatorio, 60 euro sì, 60 euro. Ce n'erano anche, mi pare, 68, 70, qualcosa del genere, secondo i punti che andati. Io sono andato dove praticamente facevamo le visite mediche per lavoro, capite? Invece basta andare a pronto soccorso, dici che c'è mal di testa, cappuccino per dire, cazzo te lo fanno subito, immediatamente devi fare un tampone. Non so, cazzo, ma vivo tutta la gira, ho tutta la lì. Guarda, quando era, proprio ieri stavo parlando con un carissimo amico di vecchia data che abitava lì nel palazzo via Pasqua, dove abitavo io, e mi ha detto che è andato a pronto soccorso perché non è stato bene. È entrato alle 6 di sera, 6 e mezza, mi ha detto, più o meno quell'ora lì, è uscito alle 10 del mattino. Poi, quando c'ero io stesso c'era gente dalle 9 del mattino, allucinante, e dalle 9 del mattino, ed erano lì ancora il mattino dopo quando io me ne sono andato, ti scaricano lì, capito? No, a me mi è arrivato prima l'elettrocardiogramma, poi i prelievi e poi il tampone. Cosa sbagliata, perché la prima cosa che avevano fatto era il tampone. Fanno le cose sbagliatissime, fanno. Ma cosa fate nel casino? Per carità. Troppo casino c'è contro soccorsi. Troppo casino. Ha visto ordinato dal sindaco? In anni campus. Niente assembramenti, non più di 2-3 persone in gruppo, anche con la mascherina. Capito? Niente assembramenti. Io ieri ero in via Roma aspettando che chiudesse il bar mia figlia, cazzo vera Piazza d'Italia pieno di gente, tutti con la mascherina, sì va bene, però tutti ammassati uno attaccato all'altro, tutti giugendi, vendi, non si può fare neanche quello. Ma la verità, io arrivo un sabato sera, cazzo non ho più gana, manco dici. Io oggi ci ho rinunciato a uscirmi ed esco dopo che devo fare un paio di cose. Devo fare e basta, ma la verità, me ne passo in di la gana abitualmente ai ciccata, che talmente ne vengo lì. Cazzo arrivo un sabato sera me ne voglio stare a casa. E tu stai tutta la settimana lavorando, sei fuori, sei anche a rischio, con la mia figlia, come tanti che lavorano, io stesso non trovo nessuna parte. Nulla, vado mica alla piazzetta carbonata per prendermi le sigarette e me ne rientro a casa, ma immediatamente, con tutte le precauzioni, capito? Caffè, niente, non lo sto facendo a casa, non sono più nessuna parte. Perché è un rischio, non c'è niente da fare. Vabbè. Sì, sai cosa ne so io, cioè il fatto sta che quest'anno se puttani chi sta marazzucci, se puttani solo miseria, e boh, non ci sta portando niente di buono, anche perché il lavoro non è come prima, c'erano locali che consumavano 4-5 bombe alla settimana, adesso ne consumano 2, e quello è tutto lavoro perso, sono di nafessi, c'è la grande giustizia, chissà cosa siamo venuti guai, nei guai più totali. Lo so, ma non è solo la bombola, è tutto l'indotto commerciale che è calato, capito? È calato come i bar, gli alberghi, i ristoranti per quanto riguarda queste cose qua, ma tutto, anche il supermarket, tutto. Tutto è calato, c'è abbigliamento, tutto. Calato tutto perché la gente ha anche paura di uscire, e poi con queste restrizioni, quindi, anzi. Fortunatamente il lockdown è dalle 10 di sera. Se lo dovessero cambiare, che lo fanno dalle 7 alle 8, addio. Sì, mi ne vorrei fare un po' a Platamona domani, ma boh, non so come manco io di farabio, no. Anco, basta mettermi in un posto tranquillo, boh. Anche se faccio un po' di paura, non sa mai che venga neghiti a rompermi le scatole. Ma quello sto dicendo, mi domani mi hanno invitato, ma poi mi hanno invitato, perché ho già detto di no, ho un moto raduno, e non ci vado, infatti mio giro mi aveva lasciato la moto, però no, non ci vado perché non mi interessa, capito? Infatti molti hanno la tua disdetta, non si può, non è troppo pericoloso, no, non fa, è un casino. So che non fa, non se ne comprende più nulla, poi che la patologia è ancora peggio, dice. Avanti lui! Tu veri è? Scrivi era il telefono? Beh, ho fatto bene, non ho rilanciarti. Hai controllato poi quella cosa che ti ho chiesto stamattina? Niente? No, niente. Non ti ho mandato niente perché non c'era niente. va bene. Capo del cosmetro. Sì, Anto, se hai altro tipo di patologie è devastante la cosa. Devi essere proprio immune, un po' bello forte, capito? E avere un bel anticorpi. A chi si ti bifigheggia è un casino. Sì, capa. Hai detto che molto visto dell'os amigos. Dell'os amigos, chi? Cosa? Il falegname, come si chiama? Sì. Sì, il cantante. Cantante suonista, cos'è? Falegname. Che amici di rato. Quello basso, va via sempre più. Lo va detto la messicana. Quello basso. Mi pare si chiama proprio più secchi. Sì, Falegname, non mi ricordo il nome, porca amici. Falegname era sì, Falegname. Era una vita quando Luca Gianluzzi. Poi non mi ricordo perché è andata a finire. Hanno fatto lavoro, un bel lavoro, a mia suocera l'ho fatto. Sia lui che Ted. Bravo. Porca miseria, non mi ricordo come si chiama. Ma poi è morto anche quello percussionista, mi pare. Cazzo, ti morendo già. Quello che suonava la batteria, che c'è un bel grosso. Che poi mi pare faccia la parte sempre di quel gruppo. Non mi ricordo il nome, io l'avevo visto all'ultima festa di San Marco a Fertilia, l'anno scorso, c'erano i loro amici sì, nella piazza, l'anno scorso d'estate, prima che succedesse tutto questo casino. E niente, stavamo parlando, un atto, cazzo, ma ti diciamo, ma comunque c'è lui, dai. Cazzo, ma allucinante, che probabilmente c'aveva altre patologie ed è morto di quella malattia. Ma voi dite che è molto buro, Guido. Ma probabilmente che ci va via l'assicurazione in via Napoli. È molto buruviso. Sicurazione via Napoli c'era cosa, come si chiama? Gianni Farina. E Gianni è morto. E Gianni è morto. Ah, io non dire stronzate. Ma Gianni Farina, assicuratore. Il figlio di quelli. Che ci avevano, forse ci hanno ancora la Vigilpol. Sì. No, ma non ho saputo niente io. Minchia. Nel casino, c'è la moto assicurata io lì. Capo, avrò figliolo, beh. Sì, quello mi ha nato. Già lo conosci, chi solo un po' magrolino, Ehi, non era tanto magrolino, forse allora aveva qualche malattia, coi capelli briciolati. Sì, cazzo male me. Un anno più piccolo di me, cazzo. Un anno più piccolo di me, da 60. Ma dimmi tu, cazzo, ma come si fa? Sì, me l'hanno detto. Cavolo, mi danno i dito, quando mi fa rimane mi danno i dito, guarda che è morto, se mi ha detto che era Edo, cioè. E Gianni Farina ce n'è uno solo, mi ha detto la situazione via Napoli, c'è quella di fronte a Fiocca e Concas, quello lì è? Sì, è Edo, Ma dimmi tu, cazzo, oh, c'è allucinante, veramente. Riprendi. Un attimo, io a Bisese. Cos'è che c'è un brucio? Io? Sì. Ehi, allora, bacia appena appena, metto la setta, sì. Tutto frusciato. Guarda. Lo sento anch'io. C'è un rientro. Ma ancora? Io controllo a Bondu, non c'è l'HPL mollato. Tutto frusciato, è tutto frusciato. Aspetta, no, già lo so io, lo userei. Guarda, adesso lo metto al massimo e non lo fa più. Adesso va bene. Tutto frusciato. Tutto frusciato. Frusciato. Dice benissimo. Ciao. Chi è lui? Non so, chi è che sta dicendo tutto frusciato? Vabbè, grazie comunque del frusciato. Se vuoi entrare siamo qua, se no. Ma nuovo lo dico, non accatta come te chiede. Claudio Pedisella. Luca Catarella. Sì. Via. Ciao. Via. Andiamo. Sì. Andiamo davvero, andiamo. Sa perché facevo quell'innesco, boh? Ma tu eri o Luca? Io. No, dico, l'altro giorno, che è un Antonio. Vabbè, trazionario è 1-2, ma sembra che sta facendo l'umidità. Ma Luca è poco umane, però... Natalino! Vagando Vigno! È tutto frusciato. Sta frusciando, sì. Tutto frusciato, Sto fischiato, sto uscendo. Quante parlate in due, tu e Claudio, Anzu? Cos'è, Cla? A diritto, ciao a Tattalino. Ciao a tutti. Ciao, Tattalino Catarella. Vabbè, là, io già sono in ascolto, faccio un pocherino. Guarda, c'è una mariglia da solo. Attivo qua. Tattalino Catarella. Claudio Cocomale. Tattalino Alluminio. Flipper, ma c'è a portare questo microfono? Sì, c'era il microfono troppo vicino alla radio. Ah, proprio vicino alla radio, sì. Aspetta, vediamo un po'. Ecco, se no vicino lo fa. Eia, non dovrebbe farlo adesso. Insomma, si sente un fruscio leggero. Forse la ventola. Sento qualcosa di strano, cazzo, ma si indocchendi? Niente, sto messo a portare. Aspetta, guarda, lo rimetto dove era prima. Ecco, adesso è sopra la radio, me l'ha messo là sopra. Così non lo fa, se lo avvicini lo fa. Ehi, magari anche il dipolo che fa un po' di scherzetti. Ah, il dipolo ce l'ha, pochissimo, Di poco c'era dei vizi a fare questi rientri così. Ma perché l'antenna tolta l'hai? Perché quando l'ho rimessa? Ah, è vero, non è mai rimessa. Ah, c'è quel di polo a Penzoni. Gatta. Io l'antenna non l'hai più, la verticale. No, me l'hanno rubata tu. sto da bene furato. Ci sono, eh? Ehi, c'è quello sotto a me, tu sta sempre cercando un rame, cazzo, il giorno sono salito su, non c'è più un'antenna. Ma è quello che ti ha pagato con la moletta? Ehi, ma lui! Per carità, chiedimi che conosci. Ma se mi tocchi l'antenna ti brucio la gianna, se ma stai scherzando? Cazzo, mamma, così, c'è una cosa a me? C'è poco da fare, tu che ne si doveva salire la bancale dopo un po' di anni, no? A poi ti fuoco a te direttamente, non si buoni, sta tranquillo, capito? Meglio l'antenna. Vabbè, gli serviva il rame, detto a me, tornami la canna a pesca. Ah, cazzo, non ne va, cioè, non me la fotti un cazzo, se mi tocchi la roba io divento una belva. Poi esci pure da chissà un dì. Non ti temo, no? Se mi tocchi la roba, guarda. Io sono così, vivere e lasciar vivere, ma se mi tocchi la roba divento una belva. Non rispetto, manco il Padre Eterno rispetto. Io ti sparo le gambe. Ma rosogolo, se mi tocchi la roba. Io ti sparo le gambe. Claudio PL. Luca Pezzone. Carottino, oi, è un casotto. Allora, bisogna che ogni tanto te la porti a casa quel mezzo, capito? Così ogni tanto la puggiamo, un'altra gacca terrata e abbasciamo lo giuraggio. Tutto immagini? Beh, a casa c'è, boom boom. A mezz'oretta ha furato dalla macchina, si sta finendo le ruote, siccome ce li aveva blu, a prima ce l'ha furato i bapuncini nella moto, l'ha giucubiato io, ogni capiotta a faccia che l'ha giucuto, ma ti permettere più, mica a me non me ne frega niente, detto, quando la vedi, allontanati da Giudizio, perché la prossima volta ti faccio un po' di danno. E cosa ne ha rubato? Il bappino ne ha furato, il bappino della ruota della macchina. Si sciuga, ancora, quando ero ragazzino io li usavamo per fare i braccialetti. Ma questi qua siccome erano belli lui se li ha messi nella moto e ha giubizzicato. Laggio. Cazzo, ti giuro che gli è arrivato questo schiaffo, non gli ho detto ma se bene, boh. Ha giubizzato gli scotto nei capiotto, poi gli ho detto il perché, gli ho detto. Non t'azzardare più a avvicinarti perché cazzo la prossima volta ti faccio un bel di danno. Allora vedi che c'è un magazzino di fare moto, l'ha detto. Cazzo, non lo vedi più tu, gli ho detto. Non mi rompere le palle a me. Non tu capi nulla. Non ci tocca niente, no. Non bisogna toccare niente. Assolutamente così, purtroppo c'è gente che ha le mani lunghe e ho già avuto il vozio. Ma se la ancora mi ha chiamato, c'è ancora gente al babbo. Sicuramente. Ma come sei? È la chiusura? Sì, anche io era chiusa lui sì, però l'altro mattina gli andrà a prendere la sette, perché ci deve fare la pulizia, magari deve caricare qualcosa nel frigo, capite? Anche se domani è chiuso, però per lunedì mattina, per chi fa l'apertura. Poi ci ho detto che lì lo stesso l'apertura lunedì. Ma tu ti mando il messaggio appena sono pronta. Evidentemente, perché sai qual è il problema ti? Che alle 6 c'è ancora gente dentro. E per mandarla via ci vuole sempre quel quarto d'ora, 20 minuti, dai ragazzi, alzate, fate la cortesia, uscite fuori, devo chiudere, capite? Ma non è così che funziona, perché se c'è una regola da rispettare, devono essere consapevoli anche quelli che stanno bevendo, perché sennò vanno a fare del danno a chi gli va. Infatti già fatto così, capito? Anche perché ieri ho visto in Via Italia c'erano un bel pattuglie, Piazza Italia, un bel, io mi sono trattenuto, sono andato a prendere l'acqua ancora e ancora non va finito, stavo lavando per terra. Carico l'aveva già fatto, io sono andato a buttarci la mondezza, c'erano due buste di plastica e c'erano i carabinieri lì vicino al bar, due pattuglie, capito? Quindi bisogna stare attenti. Sì, ma io per la verità ieri rientrando siamo fermati lì da Wigan, lì a Ripunti, ma c'è la pienoce? Ah, conosci. Sono di casa io lì, ma lì in generale, lì puntimi. Siamo gronfio, via. Ma è l'onfio. Non lo so, no, questo non lo so. Ma sì, al bar dove, dai, ti dico anch'io, da William lì al coso, mi si chiama il... Siamo di Gnoso in Kiev, e ho una sciuveglia. No, allora che non fa. Tu stai confondendo da Giancarlo. Ma infatti Giancarlo ci ha lavorato anche l'aria lì. Una settimana gli ha chiesto se andava a fare una sostituzione. Sì, sì, quello è Giancarlo. William è... Che fai William? Di fronte all'edicola, diciamo, dai. La cosa principale, però la passo a casa di Walter. Ah, fanculo, prima o dopo il tabacchino? Dopo. Già ho capito, qualche volta siamo entrati quando uscivamo dal Tunco Reale. Sì. Ed era pieno? C'era. Diciamo che o che croce ho contatto fra i 5, 10, 15, una trentina di persone. No, diciamo che alcune erano fuori, alcune erano dentro. Dentro ce ne sono state, ma perché lì c'era la stanza grande, che c'era anche dove fanno da mangiare, quindi hanno fatto anche lì, hanno sortito anche lì dei tavoli per bere, anche se non fanno mangiare. Lì c'erano una quindicina, una ventina all'interno e gli altri fuori. Non so quant'è il posto dentro, devono stare distanziati, un casino. Tu figurati che i tavoli della pedana che c'è, perché c'è la pedana a via Roma, poi all'angolo c'è l'altra pedana a Piazza d'Italia, dell'aria. E proprio i carabinieri ieri mi stava dicendo che gli ha fatto togliere due tavoli e i posti anziché da 4 a 2, perché la pedana è troppo piccola, praticamente i tavoli erano troppo vicini. È un casotto. Vabbè, noi il tempo di una birretta ce ne siamo andati. No, vabbè, ma io lo stesso sto... prevenire è meglio che curare, si dice, no? Nel senso che anche al lavoro noi siamo, anche se siamo in due, siamo delle persone corrette, perché stiamo lavorando all'orto botanica, no? Quindi uno sa dell'altro, di come praticamente viviamo, no? Però è sempre meglio prevenire che curare. Perché non vanno la mascherina, anche lì all'aperto, capito? Anche se abbiamo distanza, se abbiamo tutta l'aria possibile, ma immaginabile, però sai. Non ti fidare, io ho sentito proprio l'altro giorno un paio di colleghi, dove ero io e tre sono a casa in quarantena e l'hanno preso proprio per queste tronfate, capito? C'è l'ordinato aziendale di usare la mascherina sia in macchina sia al lavoro e fuori dal lavoro, in qualsiasi impianto, in qualsiasi, poi con guanti, perché noi vabbè lavoravamo in impianti di produzione, quindi c'è, ci vogliono i guanti, e che i tre siano nel biliardo, perché sono tre che frequentano il bar, Baresi, Trinità d'Agurto, Isola Rossa, capito? E sicuramente ce l'hanno caricato lì e adesso sono in quarantena e gli altri hanno fatto tutti i tamponi e sono tutti negativi, però bisogna stare attenti, non c'è niente da fare, bisogna stare molto molto attenti. Vai Luca. Lo so Luca, lo so che sta facendo qualcosa. Antonio, e tu? Io me, proprio come c'è componente di notte, la felpa, i pizziti, la mascherina, e su a fare una commissione, esce. Non avevi la gara, ma tocca esci poi forza. Beh, io sinceramente dovevo andare a comprare la pizza a Gabriele, ma rimane in pizza, due o tre giorni fa lo stesso, qui sono magnato, oggi mi sto puntando e sono quelli che mangiano il pesce. Beh, non è sempre vista, no? No, non è per quello, no, non interessa a me quello, è che mi dà fastidio che mangi sempre queste cose qua, capito? No, io sono molto ghiotto di pizza, mi piace molto. Però a qualche volta mi piace anche mangiare altro, non è sempre la madre si goggia, no? Chissà come è capo lei domani, dici che dobbiamo fare, ma ragazzi un gioco, dici che domani sera fa di Eva, vero? Lo so, so solo che da lunedì cambia il tempo. Da lunedì? Eh sì, così c'è scritto. Da lunedì inizia nuovamente a abbassarsi le temperature e inizia nuovamente, perlomeno. Acqua non ne ho visto, ma tempo brutto, no? Ho capito. Ragazzi, guardate che stanno cercando operatori ecologici, ma chi interessa c'è la domanda da fare. Operatori ecologici? Avete domanda? Sì, sì. Così, abbiamo detto, così sto dicendo. A me sinceramente non mi interessa perché sto già operando, se no... Ma praticamente questa ATTI che hanno fatto a Sassari, perché so che hanno fatto un ATTI, un'associazione temporanea di impresa, assieme alla... praticamente a quella che ha vinto l'appalto, un aiuto, dai. Sì, sarà per dai pressi mesi, però insomma, è una cosa interessante per chi vorrebbe andare a lavorare. Sì, ti l'ho sentito anche, me l'hanno letto, dai, me l'hanno letto. Mi sono sia per 8 mesi, per 8 mesi. Ehi, ma l'altro colpo non l'hai sentito? Uia. Poveri noi, febbraio 2021 tolgo la rete serenata e c'è scritto così qualcuno inizia a andare veramente a lavorare. Ma scusa, forse è un discorso che ne abbiamo già parlato, non è questione di toglierlo o di metterlo, lo metti, ok, molto bene, impegna le persone a cui lo dai, quindi lo puoi impegnare anche 4 ore al giorno e loro i soldi come se stanno lavorando, come quando hanno fatto i lavori socialmente utili, se ben ti ricordi, che poi sono andati a buon fine, per chi ci lavorava. Esatto, che molti di quelli del socialmente utili sono entrati fissi, bravissimo, sì, questo ti sto dicendo, io non è che voglio che lo tolgano, per carità, perché c'è gente che veramente ne ha bisogno, però impegna queste persone, e stai pagando, perché so che stanno pagando con certezza questi navigator, senza far niente, col problema del Covid, non stanno girando, non stanno cercando lavoro a nessuno, però sono pagati, e quelli sono soldi che lo Stato sta togliendo, capite? Poi, a chi spetta dalla chi spetta, non a chi ha un altro reddito, perché c'è gente che la sta prendendo questo cazzo di rete serenata e hanno anche un altro reddito, capito? Dalla veramente a chi ha bisogno e poi impegni le stesse persone alla quale hai dato il reddito di cittadinanza, le impegni a fare almeno 3-4 ore, 16 ore settimanali, 21 ore settimanali, falli vaga che cosa. Guarda, io tempo fa l'ho fatto e devo essere sincero, se me li danno me li prendo, non è che li lascio a loro. Il problema è un altro, perché se tu a me non mi impegni non è colpa mia, quindi non è la colpa di chi li prende i quattrini, la colpa è di chi li dà, che non interagisce sul sistema. Questo è il mio pensiero e poi vedete un po' voi. No, io sono d'accordo con te, anzi di più, ma infatti c'è gente che non interagisce, capite? C'è gente che non interagisce, perché io so da una persona, conosciutissima anche da te, che mi ha raccontato proprio alcune cose, nel senso che davanti a lui hanno offerto del lavoro a gente che aveva ritirato, hanno rifiutato, no, ma io voglio in tabaccologia, io non posso fare più nuda, io voglio in linea del disco, io voglio unito, io voglio guisato, capito? È una domanda a lavorare, però prima c'è un lavoro socialmente utile, dobbiamo andare a lavorare. Cioè, devono farli, i borsi di lavoro ci devi andare, glielo devi ritirare. Poi ci sono anche quelle persone che non possono lavorare, giustamente, cosa cazzo gli dai? Giustamente non gli dai niente, cioè, tieni la pensione così e basta. Però ci sono tante persone che ne hanno bisogno, certe persone che è così. Non so tu come funziona esattamente, però ti ripeto, c'è molta gente che ce l'ha e non ne ha diritto, capito? Infatti penso che facciano adesso nel 2021 degli altri sondaggi, delle altre cose, con l'ISE completamente a zero, perché l'ultimo ISE, un ISE è inferiore a 9.000 euro, e cosa vuol dire? Vuol dire che uno può accedere al reddito di cittadinanza anche avendo un reddito, invece se tu fai accedere la gente che veramente ha l'ISE a zero, che non ha proprio niente, capito? Allora è diverso. Ciao, tappa, ma cioè, c'è gente che è poveraccia veramente, e quelli ne hanno bisogno, ne hanno. C'è gente che invece no. Va bene, dai, io vi saluto, ci sentiamo dopo che esco un attimino a fare delle commissioni, ok? Ciao, ciao, vai, ti sveglia, ciao, ciao, buona spesa, buon tutto, come devi fare? Luca, ci sei? Sì, ciao a tu, ciao, e non compare il vermentino. Ciao, ciao, ma corridi? Sì, ma infatti, cioè come io conosco tanta gente che ce l'ha, però veramente... va bene, va benissimo perché il reddito è zero e va bene. Ma quando tu metti che uno può accedere con un ICE da 9.000 euro, cazzo vuol dire il reddito? Fai la domanda e te lo ragini. Troppo comodo così, se invece le capacità è che siamo in un periodo molto triste, perché anche la mia azienda dove lavoravo prima, la multinazionale, aveva deciso a marzo, di solito sì, marzo-aprile, di prendere per 6 mesi una ventina di persone e dividerle in tutti gli impianti, non l'ha potuto fare, assolutamente, mi capito, per le ferie, per le sostituzioni, eccetera, non l'ha potuto fare, quindi è chiaro che le aziende già sono in grande difficoltà ad assumere, in più travaglio fino a poco, come fai? Così è. Ricordate che non ci fermino, poi il resto è andato per me, quasi. No, ma infatti io mi auguro per mia figlia e per tanti altri che hanno quel tipo di attività che non si blocchi del tutto, perché grazie a Dio sta lavorando. Cioè, sino alle 6, dalla mattina alle 6, sino alle 6 si lavora, la giornata la fai. Cioè, però chiudi del tutto e appena la incubo, capito? E prendi lo sai che devo fare un attimo in verticale? Claro, è un casino, nel senso che hanno chiuso i circoli, cazzo, come qua vicino a me, no, hanno chiuso i circoli, adesso gente che in questo bar non c'è mai entrata, tutti sono lì a ritrovare, là. Capito, sono in crisi d'astinenza, allora tutti a rubare, non mi sono mandato in vita suia, sono in treni, ed è lì, non c'è assemblamento. Beh, è chiaro che c'è assemblamento, ma i circoli c'è stato praticamente un conteggio alla rovescia, il circolo lo chiudi perché tanto non dà niente allo Stato, lo pagano i dazi, quindi cosa, i circoli li hanno chiusi subito, chiusi totalmente, chiusi tutti i circoli, perché non, lo Stato non incrementa niente, non pagano nulla, quindi pagano la tassa di iscrizione al partito, perché ogni circolo ha il suo partito, no? C'è quello della DC, c'è quello dei comunisti, c'è quello insomma, già lo sai come funziona, no? Sono affiliati a determinate associazioni politiche, quindi non pagare